sono le 9:12 di mercoledì 5 novembre 2025. E ieri Mamdani è diventato sindaco di New York, un candidato democratico molto diverso dagli altri che abbiamo visto negli ultimi anni, con un programma definito socialista, addirittura comunista dai suoi avversari, sicuramente un programma interessante. Sentivo poco fa, ascoltando il discorso della vittoria, che addirittura ha annunciato che assumerà migliaia di insegnanti, che congelerà il prezzo degli affitti, che investirà naturalmente molto nei servizi pubblici e che comunque, insomma, farà cose che non erano nemmeno promesse dai precedenti candidati democratici. Ciò che forse determinò negli ultimi 20 anni molto spesso la loro sconfitta. Ora, la domanda che tutti si pongono anche qui in Italia è: ma è questo uno di quei sensori che comincia a illuminarsi di quando le cose stanno cambiando? È New York uno di quei posti dove le cose succedono prima e indicano un'inversione di tendenza? Rientra questa vittoria in un contesto dove in tutto il mondo una nuova generazione chiede una maggiore rappresentanza politica, la famosa generazione Z che vediamo scendere in piazza in tanti paesi? In Italia magari l'abbiamo detto molte volte, con il collante della grande ingiustizia di Gaza, ma in giro per il mondo, anche intorno a istanze diverse che però appunto accomunano una intera generazione. E questo, diciamo così, è questa una red flag per le grandi destre e il famoso There is no alternative di Margaret Thatcher, che risuona così tanto nelle leadership destrorse che sembrano dominare questo frangente del terzo millennio. Ovviamente nessuno può dirlo in questo momento. Secondo me, di sicuro, se può essere l'indicatore di un cambiamento, questo vuol dire che si è andati un po' oltre il semplice essere riusciti a convincere l'elettorato di sinistra che le conseguenze del ribellarsi ai tradizionali candidati democratici sono persino più drammatiche rispetto al continuare a sostenere candidati democratici moderati, che ovviamente, le cui agende ovviamente riportano anche il peso delle lobby di Wall Street. Questo è un po' il punto. A New York possiamo dire è abbastanza facile recuperare gli elettori di sinistra, laddove esistono elettori di sinistra potenziali, che non chiameremmo mai compagni che sbagliano, per intenderci, semmai chiameremmo particolarmente cortomiranti gli strateghi del Partito Democratico, che hanno pensato di poter vincere le elezioni con una sorta di business as usual in zone tradizionalmente a maggioranza democratica, come gli stati delle due coste. Ecco, questo, diciamo, quello che abbiamo visto oggi potrebbe essere l'esito della parte facile del lavoro. Diverso è rivolgersi a quella famosa America profonda a cui per anni non ha parlato nessuno e che ha trovato in Trump evidentemente un riferimento politico per la prima volta. Diciamo, forse non è proprio la prima volta, perché anche George W. Bush riuscì alla fine a battere Gore, portando alle urne gente che non si era mai mossa di casa. Con Trump il livello della retorica naturalmente è salito. E ora il punto è: viste le conseguenze di questo voto, un elettore non di sinistra pentito, ma un elettore tradizionalmente di destra, è in grado di capire quanto male si sta facendo votando gente come Trump, come Vance, Exet e compagnia? Ecco, questa è un'altra domanda interessante se rimaniamo nello scenario strettamente statunitense. Poi su scala mondiale naturalmente entrano in gioco questioni molto molto diverse, però dal punto di vista del piano della rappresentazione, fatti come quello di stanotte, cioè appunto la vittoria di un sindaco, vogliamo dirlo, socialista, in una città che ha sempre rappresentato la mecca del capitalismo, e cioè New York, pur con la sua ricchezza e diversità culturale, tutto quello che sappiamo, incrina appunto il racconto dominante del There is no alternative. Forse c'è un'alternativa, esattamente quale lo vedremo nei prossimi mesi e forse nei prossimi anni. Thank you.